Buongiorno o buonasera, bentrovati. Benvenuti. Benvenuti, grazie, è la parola che cercavo. Bentrovati, questo, no, siamo il Focolare Elettrico, e io sono Jacopo. E io sono Marco. Esatto, c'è con noi anche Marco, stavolta siamo solo noi due, magari in futuro ci saranno anche ospiti, ma abbiamo voluto partire così con l'esperienza pura di noi due che diciamo stronzate senza sapere cosa cazzo diciamo. Dire, è il nostro podcast, però è probabile che ci sentirete spesso durante queste puntate. Noi, esatto, noi cercheremo di esserci spesso, poi magari qualche ospite così. E è sulla stessa lunghezza d'onda e nello stesso universo del Il Mio Sallotto, che è il podcast di Salla, il nostro amico che ci sta aiutando. Grazie Salla per il logo. Siamo obbligati aspettatevi per contratto. Crossover e... esatto. Epiche battaglie. Esatto, epiche battaglie, esatto, villain che sono inutili e Thanos. E che altro? Beh, inizieremo parlando di quello che è l'inizio dei giochi. Non abbiamo in realtà un senso per queste cose, spesso non abbiamo anche opinioni informate, abbiamo solo opinioni. È un podcast, un podcast non serve una scaletta. Esatto, non serve una scaletta, non servono persone esperte e che altro? Usciranno un po' a casaccio quando ci va. Dipende anche dalla lunghezza degli episodi, magari li spezzeremo, magari no. E quindi, insomma, facciamo un po' come cazzo ci pare, nella Casa delle Libertà. Esatto. L'argomento di oggi è... l'episodio si chiama Press Start, perché l'argomento di oggi è quello che è un po' l'esperienza prima di entrare nel gioco vero e proprio, quindi quello che succede dal momento in cui tu fai partire un gioco e il momento in cui inizi a giocarlo, quindi quello che sono i famosi splash screen, che sarebbero quelli che tu vedi, tipo i loghi delle aziende che vedi all'inizio, i filmati iniziali, quello che vedi quando c'è scritto Press Start, se lo vedi, perché magari non ci sta. Giusto. Eccetera, eccetera, insomma, poi entriamo un po' più nel dettaglio. Questo, diciamo, è un ottimo punto di partenza, secondo noi, di quello che vogliamo affrontare, ovvero i videogiochi un po' più astrattamente, si dice, spero si possa dire, e in maniera più astratta rispetto ai classici podcast. Sì, astrattamente è un verbo, no? Quindi sì, noi premendo start cominciamo il nostro podcast. Questo è quello che vedete all'inizio del gioco. Esatto. I menu iniziali che ci hanno particolarmente colpito e che ci hanno fatto pensare a come magari i videogiochi non sono solo Fortnite e quelle altre cose che... Beh, oh, calma, però Fortnite non è... Cioè, non lo fare lo snob già subito. Hai ragione, subito. Ma era giusto per far capire con chi avevano a che fare. Uno snob del cazzo, ok. Assolutamente. Anch'io sono uno snob del cazzo. Sì, diciamo, era per far capire agli ascoltatori quello... perché noi definiamo i giochi più come arte che come mero passatempo. Sì, no? Cioè, quello è, diciamo, il punto di partenza è quello. Cercheremo di capire perché una cosa funziona, perché no, perché una cosa ci ha colpito, perché no, per cercare un po' di magari indirizzare, dire ok, secondo noi questo è più o meno come andrebbe fatto. In generale, come un po' anche nei film, nel cinema, nei fumetti, eccetera, se una cosa c'è un pensiero dietro, c'è una ragione... Anche se è una ragione di merda, almeno dici ok, c'è un'intenzione di qualcuno, di solito un designer, che ci ha sprecato un po' il tempo della sua vita, almeno 10 secondi, per dire facciamolo così perché mi tira il culo e basta, no? Cioè, perché, non lo so, vabbè, comunque. Assolutamente. Detto questo, vai Marco, io ho troppa roba da... ho un elenco lunghissimo. Mi molli subito così la patata bollente, no? Esatto, vai, comincia tu. E come diceva Jacopo, quest'idea che particolarmente nei giochi, l'idea di un buon design si sente di più che magari in un film o un qualsiasi altro, forse, tipo di rappresentazione, perché, almeno a mia modesta opinione, i giochi hanno di particolare che l'interazione con l'utente è una cosa che non esiste in nessun altro tipo di media come nei videogiochi. Se Jacopo è d'accordo con me fino a questo punto. Sì, sì, sì. Ma io sono qui, non devi parlare in terza persona. Va bene. E sono quindi fin dal primo momento, quando il giocatore deve premere il pulsante iniziale per far partire la partita, già il buon design può esistere già a iniziare da lì. Ora, noi volevamo parlare di menu iniziali, schermate di menu iniziali che ci hanno particolarmente colpito. E io vado subito a partire con una che, almeno per l'esperienza che ho avuto io, ho trovato unica nel suo genere, che è quella di Katamari Damacy, un videogioco giapponese che di qualche anno fa, se non sbaglio... Aspetta, 2000... spiega bene, è molto giapponese. Cioè molto giapponese, assolutamente. È quasi incomprensibile. Spero non si senta troppo la tastiera che batte, ma... Ma ti, 2000... ti comprerò un microfono, farò l'investimento, ti compro un altro microfono. Un gioco giapponese del 2004, in cui il protagonista, il principe dell'universo, deve, deve ricostruire le stelle che sono state esplose dal padre, raccogliendo materia in una gigantesca palla, mentre si trova sulla Terra. Ma non è questo di cui vogliamo parlare in questo momento, profondità di gameplay a parte. No, ma è bellissimo. È presente tipo quelle cose che devi strusciare contro le giacche per togliere i pelucchi e la sporcizia? È tutto così, cioè il gioco è una gigantesca... fatto il gioco su quello, quando dicono che si può fare un gioco su tutto. E la particolarità di questo gioco è la giocosità, giusto per fare... per stare in tema, del suo menu iniziale. Infatti, il giocatore si ritrova a controllare il protagonista fin dall'inizio e fargli esplorare questo piccolo universo di pianeti, ognuno dei quali rappresenta una voce del menu. C'è il pianeta Terra, che rappresenta la selezione del livello, un altro pianeta che... rappresenta tipo le opzioni, un altro per la selezione dei multigiocatore, eccetera, eccetera. E era proprio di questo che volevamo parlare, come fin dall'inizio, fin da quando il giocatore prende in mano il controller e deve scegliere che cosa fare nel menu iniziale, si possa già iniziare a giocare. Questo è un esempio di buon design, almeno secondo mia modesta opinione. Sì, sì, sì. Sì, no, è un buon modo di metterti subito un po' nel gioco, fin dal menu principale, di farti anche una specie di mini tutorial sul movimento, perché magari è il primo gioco che giochi che ha questo schema di movimento in cui ti sposti in un piano tridimensionale, che ne so. Cioè, secondo me è un buon modo di anche introdurti all'umorismo, al personaggio. Esatto, perché penso sia più quello, cioè... il poter utilizzare il videogioco nel suo intero, in tutte le sue parti, per far arrivare un'idea al giocatore. Questo è un videogioco decisamente fuori di testa, e questa schermata iniziale lo rappresenta alla perfezione. Adesso mi hai ricordato uno dei giochi che ho nel mio elenco, che mi sono puntato, anzi due. Uno è Braid, dove proprio il menu principale quasi non esiste, perché è proprio come si dice, è senza soluzione di continuità. Cioè tu inizi e già sei nel gioco, c'è questo bellissimo sfondo che sembra un dipinto con la scritta Braid, e tu già puoi muovere il personaggio ed è praticamente sei nel primo livello, teoricamente. Cioè sei già nel gioco. Certo. E anche Conker, che ha un menu simile a Katamari, nel senso che tu muovi il personaggio e vai nelle diverse opzioni, ma il personaggio è ubriaco e sei in un pub. Quindi è già... tu prendi controllo di Conker, scusate, per chi non lo conoscesse, è un gioco sempre 3D platform tipo Super Mario, così, ma pieno di scoregge, parolacce, fatto un po' per valore, un po' di shock per il Nintendo 64, poi rifatto su Xbox dove l'ho giocato, dove appunto il protagonista era un po' l'anti-mascotte che al tempo era un po' obbligatorio averla, no? Su ogni sistema c'era una mascotte del cazzo. E appunto è bello perché cominciava con lui che era ubriaco in questo pub e sceglieva le varie opzioni, e poi il gioco era lui che si svegliava nel dopo sbronzo, dopo questa nottata, non sapevi che cazzo era successo, quindi tipo una notte a leoni. E sì, comunque un bel modo di introdurti, ci sta. Anche un altro modo tipo metterti nel gioco senza che tu lo sappia, cioè metterti nel gioco, ma più nel mood del gioco, mettiamolo così, che è un po' quello che dovrebbe fare ogni menu start come minimo, cioè senza per forza doverti insegnare come giocare subito, ma magari per diverse motivazioni deve darti delle opzioni su cosa vuoi fare, tipo se vuoi continuare, che deve essere la prima, cazzo, fare una nuova partita, caricare una partita, scegliere delle opzioni, deve darti delle opzioni, però deve farlo in modo anche da metterti un po' nel mood, in atmosfera del gioco. E God of War, per esempio, l'ultimo God of War lo fa bene, secondo me, perché appena cominci il gioco scopri che il menu, lo sfondo del menu, era in realtà la prima scena del gioco, e da quel momento in poi un po' ti è come se ti preparassi al fatto che nel gioco non ci saranno mai tagli di camera, cioè tu già cominci e non c'è un taglio, non c'è una soluzione di continuità appunto fra... Però insomma, che cazzo vuol dire? Smetterò di dirlo. Non c'è una transizione esatto molto, molto tagliata, molto brusca tra il menu e il gioco. E anche c'è Splinter Conviction che mette un po' nel mood con questo stacco netto fra quello che era il gioco precedente e il nuovo gioco, molto più in azione, ti ficca in mezzo a una sparatoria dentro al menu, una sparatoria però con il tempo fermato, quindi non c'hai l'ansia che devi partire subito. Poi anche i vari Dark Souls, Final Fantasy 7 e così ti mettono un po' nel mood con questo menu semplice, ma secondo me di atmosfera. Anche ecco, invece lì io su Final Fantasy non posso... Sì, no, lì sono d'accordo. Su i Dark Souls e cose del genere, invece, vorrei più ribattere in questo caso, perché secondo me lì io non ho mai avvertito troppo la vera atmosfera del gioco. Ok, c'è la musica, ci sono i cori gregoriani in sottofondo e tutto quanto, però era proprio questo, era anche proprio quello un esempio che potevo fare. Dark Souls, assolutamente uno dei miei giochi preferiti, tutta la saga e anche tutte le varianti, ma per esempio lì il menu principale era un esempio invece di quello che si poteva che volevo fare, per dirne uno che non si è impegnato più di tanto. Sono delle scritte con quello della selezione, che se metti a confronto con per esempio Katamari Damacy, come dicevamo prima, oppure la sparatoria che mi dicevi che c'era in Splinter Cell e cose del genere, ecco, proprio su questo che uno verrebbe da dire è questa la differenza tra un grande design fin dall'inizio a quello che dice è solo un punto di passaggio per arrivare al gioco. Sì, però diciamo ci sono tanti problemi che ha il menu di Dark Souls, tipo secondo me la lentezza, diciamo i muri di testo che devi leggere su roba che non ti interessa, tipo accordi con l'utente, contratti eccetera. Cioè quello che dicevo io è che la musica e la semplicità, quanto è scarna l'interfaccia del menu, a me ha lasciato qualcosa del tipo ok, cioè un po' perché conoscevo la fama di Dark Souls, non ci sono tanti come posso dire, non è una cosa ricamata, cioè non è una cosa, non ci sono tanti fronzoli, esatto, non è un gioco con tanti fronzoli, e effettivamente il gioco lo conferma, cioè non è un gioco che si perde tanto in chiacchiere, cioè raramente ti ferma il gioco per farti vedere una cutscene, raramente ci sono tanti cioè è molto diretto come gioco, paradossalmente essendo uno dei giochi più criptici della storia, più oscuri della storia. Quindi no, scusa, di pure, non volevo interrompere. No, avevo finito praticamente. Vai. Quello che mi dicevi degli altri giochi, soprattutto parlando di Splinter Cell e Conquer, hai detto che si chiama quello... Sì. Mi ha fatto venire in mente una cosa che ho un po'... ho scoperto mentre facevo un po' di ricerche per questo episodio. Ma hai sentito parlare di skeuomorfismo? No. A quanto pare lo skeuomorfismo è il... prendiamo la definizione magari esatta, così non faccio figure di merda. Cioè, volevi fare tutto il sapio e mo sai a scrivere che cazzo vuol dire? Non sei credibile. Uno skeuomorfismo è un ornamento fisico o grafico apposto su un oggetto allo scopo di richiamare le caratteristiche estetiche di un altro. Questo era quello che venivano definiti a certi tipi di menu in cui non era appunto l'elenco di testo continua, nuova partita, eccetera, ma in cui esatto. ogni voce del menu veniva rappresentata nel contesto del videogioco. Un esempio di queste cose che ho provato io stesso, perché ci ho giocato parecchio tempo fa e non credo di averlo mai finito, ma che però rappresenta benissimo questo concetto, era il menu di Metro 2033. Non so se ci hai mai giocato. Sì, non me lo ricordo però, sinceramente, sai? Però... Ah, no, sì, adesso me lo ricordo, ok. Esatto. Mi è arrivato il flash, cazzo, bello quel menu, è vero. Tu sei in una stanza seduto a una scrivania con davanti a te tipo uno schermo del computer con su scritto nuova partita del... No, era una macchina da scrivere, mi sa che era una macchina da scrivere. Vabbè, non importa, il concetto sì. È che ogni elemento del menu era un oggetto. Ogni elemento del menu era un oggetto, per esempio sì, c'era una radio che rappresentava le opzioni, una mappa per caricare i livelli, la macchina da scrivere con il nuovo gioco per iniziare una nuova partita, eccetera, eccetera. Comunque tu venivi già buttato in mezzo a questo piccolo rappresentazione del mondo in cui ti saresti trovato fin dall'inizio, prima addirittura di iniziare una nuova partita. Esatto. E quindi molto era anche bello, questo, vedi, che è per quello che, di nuovo, assoluto fan dei Dark Souls, eccetera, eccetera, però il loro menu è semplice, non mi sembra degno di nota, per così dire. Ben altre cose degne di nota. No, non dico degno di nota, era per fare un esempio di roba che magari la gente ha visto, che conosce, era per dire... Cioè, il minimo che puoi fare è quello, però, come dici sì, tu... Sì, infatti, cioè... è quello, è giusto, cioè non è che un gioco è brutto perché il suo menu è brutto, assolutamente. Il minimo che devi fare è toglierti dalle palle se sei un menu, quindi avere le opzioni Bravo. Utili esatto. e avere un minimo di atmosfera è il minimo che puoi fare. E poi puoi andare oltre, cioè puoi cominciare ad aggiungere roba, appunto puoi fare dello scheomorfismo, come dice Marco, questa bellissima parola che ho imparato oggi. Se lo fai troppo però magari può diventare un po', come dire... Un po' rompicoglio, cioè un po'... Non so, può diventare... Come posso dire? Può sembrarti vecchio, può invecchiare velocemente, mettiamola così. Mm-hmm, come cosa. Assolutamente. Infatti, per parlare un po' della cosa anche da un po' più di vista... Dal punto un po' più di vista tecnico della cosa. Visto che sì. Anche noi, diciamo, un po' come appassionati e anche un po' programmatori, ci teniamo un po' anche così. Menu iniziale... Per favore mettete il continua in cima, così che sì, non devi stare per a perdere... Favore. Per favore, dai. Per favore. Non devi stare a premere il pulsante A 27 volte per far partire la partita. Questa è proprio... È vero. Una cosa basilare. E... Il menu iniziale, se non è un qualcosa di... Come dire, come facevamo l'esempio prima di Katamari Damacy, che è così rappresentante del gioco, in cui anche l'interazione può risultare divertente... Fatelo passare in fretta, cioè non è che dobbiamo star lì a vedere 27.000 opzioni. Allora. Oh, basta, fate partire il sono gioco. Sono d'accordo, però c'è un altro lato di questa storia, secondo me. Cioè che tu, diciamo, come base devi fare questo, però devi sempre dare l'opzione a un giocatore che invece vuole starci lì di scoprire qualcosa, magari. Puoi dargli qualcosina, un contentino, tipo per esempio Final Fantasy XV. Vabbè, come menu principale, come base è classico, cioè c'è il logo e premi start, poi ci sono delle voci sul menu e basta. Però la cosa che molti giocatori non sanno, magari, e che scoprono alla fine, è che questo menu cambia col tempo, cioè dopo che hai finito la partita, il menu cambia. Così come anche cambia il menu di... oddio, non mi ricordo. C'era anche un altro gioco dove adesso non mi ricordo, però va bene. E quindi magari... scoprendo questa cosa, cioè guardando il nuovo logo, la nuova musica, così hai una reazione emotiva, cioè non è solamente lo stesso menu anche dopo che hai finito, cambia come giochi, come cambia anche in Half-Life 2 il menu, come giochi cambia lo sfondo in base a dove sei, nella storia, mi sembra anche God of War forse, non mi ricordo, e questo è un'introduzione per parlare di un'altra cosa, cioè successivamente, per adesso volevo finire la mia lista con due giochi di Double Fine che secondo me hanno dei menu bellissimi. Uno è Psychonauts, che ha un menu dove tu sei dentro alla tua cabina di questa specie di campo estivo per giovani ragazzi con poteri psichici, ed è bellissimo perché quando cominci il gioco tu scegli il tuo letto, cioè stai scegliendo in quale letto dormire tra vari letti a castello e Bello. scrivi il tuo nome, che sarebbe il nome di salvataggio, sulla lavagnetta. Quindi è un po' un Ah, misto. molto bello. Non stai proprio controllando il personaggio, ma stai interagendo con il mondo e sei già nel mondo. E Scheomorfismo, come dicevamo prima. Brutal Legend invece non è proprio scheomorfismo, ma è, penso, una delle introduzioni che più mi ha fatto sorridere da orecchio a orecchio, perché praticamente, allora, di solito, vabbè, ci sono i vari splash screen che abbiamo detto prima, sono i Ah, lodi. mi sono ricordato adesso di cosa stai parlando, assolutamente d'accordo. Ok, Prego, prego, continua. un attimo, ci arriviamo. Gli splash screen, va bene, puoi farli con lo stile del tuo gioco, tipo, che ne so, Lucas Games, quando esisteva, per i giochi di Star Wars, tipo il personaggino che è nel logo di Lucasfilm lanciava LucasArts, scusami, che cazzo dico, lanciava una spada laser e disegnava il logo con la spada laser. Puoi fare queste cose pure con la splash screen un po' a tema, però di solito la prima cosa personalizzata del gioco è il filmato prima di premere start e poi il menu di premere start proprio. In Brutal Legend, una volta finiti gli splash screen, che pure sono a tema metal, perché è un gioco tutto ambientato in una specie di universo parallelo metal, tutto basato su copertine heavy metal, epic metal, eccetera. Riferimenti Sì, a sì, sì. musica metal a non finire. Esatto, ospiti speciali tipo Ozzy Osbourne, se non sbaglio, Osbourne, c'è tipo nel. Lemmy dei motori. Vabbè, comunque, il gioco comincia appena finisce splash screen con un filmato di Jack Black, che è il protagonista del gioco, cioè fa la parte del protagonista, la voce, un po' le sembianze, che entra in un negozio di dischi, caccia un disco in vinile da una raccolta e la mostra alla telecamera come per dire: guarda che cazzo ho trovato, che figata che ho trovato. E c'è questo album in mano che ha una copertina è bellissima, copertina stupenda, che l'album si chiama Brutal Legend. E come lo apre, entri nel menu. Cioè, il menu è tipo, sono de delle aree dell'album che si illuminano per Ogni dire, cioè. schermata del menu, se non sbaglio, è una parte diversa Esatto, ogni della schermata, sì. custodia e del disco stesso Esatto, del del disco in vinile. vinile, esatto. E quella per me è uno dei menu più belli della che quando c'è. Assolutamente, questo è un altro assoluto esempio. Mi ha quasi fatto male averci messo, penso, 2 ore a ricordarmi che era così bello. E poi sono, beh, anche altri menu che sono all'interno del gioco stesso, tipo Her Story o Uplink, che sono menu dentro al computer stesso dove giocherai il gioco, perché in pratica sono dei giochi dove tu stai interagendo con una specie di computer virtuale, cioè tu stai direttamente controllando tipo il mouse e la tastiera collegati a questo computer fasullo, come se fossi il protagonista della storia che sta interagendo con quel computer, e quindi la schermata del principale è semplicemente la schermata del computer e il login, oppure non lo so, la barra di ricerca, dipende. Quindi sono un po' simili a Braid o a Katamari, ma anche proprio più, come dire, fondono ancora di più il mondo del protagonista del gioco e il tuo, proprio rendendoti collegato direttamente a quello che sta facendo, come pochi altri giochi. Comunque, quello che volevo dire, ed era il prossimo argomento di cui volevo parlare, è. Ah, se mi Vai, vai, permetti, avrei vai, vai, vai. un ultimo Sì, esempio, giusto sì. per far capire ai nostri ascoltatori con chi hanno a che fare, volevo fare un esempio riguardante un personaggio che probabilmente riaffiorerà molto spesso durante i nostri podcast. Nel videogioco di Hideo Kojima, di Metal Ho Gear. sentito Salla sospirare a tipo 5.000 km da qui, ma va bene. Nel videogioco di Hideo Kojima, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, c'è un menu iniziale che anche lì mi ha lasciato abbastanza. Diciamo che con il senno di poi, quando, come diceva Jacopo, rigiocando, tornando indietro, i menu che cambiano, questo è un po' diverso. La prima volta che apri il gioco, dopo ovviamente l'introduzione molto. Il thriller cinematografico da Hideo Kojima, eccetera, eccetera, ti ritrovi in un menu iniziale abbastanza standard. C'è l'elenco delle voci con in background dei piccoli filmati, degli spezzoni dei filmati del gioco, eccetera, eccetera. E premendo E si vede appunto nello sfondo Snake, il protagonista, in un cimitero di fronte a una lapide, e la telecamera che gli gira un po' attorno e altre scene. Ma quando si preme il pulsante di inizio partita, per iniziare una nuova partita, nel menu si sente il suono di uno sparo e il gioco comincia. Ora uno dice, all'inizio non è che ci fa... Non ci dà troppo peso. Sì, alla poi cosa. Quegli anni, cazzo, con tutti i Gears of War, Call of Duty, quello al minimo, cazzo. Però, ovviamente, giusto piccola premessa, spoiler in questo caso, perché ci saranno spoiler, immagino, in tutto il podcast, visto come ne parliamo dei videogiochi. Arrivati a un certo punto della storia, alla scena di Snake nel cimitero, e di che cosa vuole fare in quel cimitero, lo sparo nel menu iniziale, restiamo sempre un po' sul vago, prende un altro significato. E questo è un altro esempio di come... E questa è una cosa che riesce bene... Oh, che ci volete fare? Siamo entrambi dei un po' fangirl di Kojima, che volete fare? Sì, riesce particolarmente bene a Kojima, non sappiamo che dirvi. Oh, il fatto di riuscire a integrare ogni aspetto del videogioco, in questo caso anche il menu iniziale, con il significato della sua storia, con... Più o meno bene, vabbè. Più o meno bene, ovviamente, siamo fangirl, però non è che... Non lo consideriamo, almeno io personalmente, un dio in terra, ancora, almeno per il momento. E... però qualche sessione di preghiera sul podcast la faremo. Vabbè, comunque sì. Andando avanti lo conoscerete sicuramente meglio con Gino, decisamente non sarà parleremo... questa è la prima ma non di certo l'ultima volta di cui parleremo, preparatevi, di cui ne parleremo. Se volete ridere comunque vi consiglio intanto di guardarvi qualche video di Mega 64, che è un canale YouTube molto vecchio dove ogni tanto fanno dei video con Kojima presente sui suoi giochi, prendendoli un po' per il culo, così cominciate un po' a capire di che persona si tratta. È una persona molto seria, molto che pensa, esatto, che sicuramente non sta usando il suo lavoro per farsi amici, per farsi amiche delle celebrità, mettiamo così, sicuramente non è per quello che... Oh, vabbè, nessuno è perfetto. E poi ricordiamoci che, se non sbaglio, era in Guns of the Patriot, no? Che c'erano le quattro beauty and beast, no? Mamma mia. Quindi no, alcune cose sono riuscite, alcune cose un po' meno, non possiamo negarlo. Ma questa cosa del menu iniziale mi è rimasta particolarmente impressa, perché alla fine ti faceva capire che non eri solo, diciamo, eri tu alla guida tra virgolette di Snake durante il gioco, e alla fine sei tu che sei arrivato a portarlo dove è arrivato alla fine. E sì, quello sparo all'inizio assume un significato diverso per questo. Ci sono... Quindi il momento Kojima c'è stato anche per questa prima puntata. Obbligatorio, in ogni episodio dobbiamo dire la parola Kojima almeno una volta. Comunque... dovremmo fare, alla fine di tutto, dobbiamo fare tipo un counter delle volte che abbiamo nominato Kojima in tutti gli episodi. Ormai è un gioco alcolico. Kojima. comunque... No, dicevi, volevi introdurre... Adesso mi metto questo, però sto pensando a quanti giochi ho capito dopo una cosa, un dettaglio, tipo, che ne so, alcuni giochi ti fanno vedere un filmato all'inizio, ah, bello, figo sto filmato, e poi dopo tipo un'ora, ah, ecco cos'era quel filmato, tipo The Witcher 2, The Witcher 3, mm-hmm. Tipo, cioè, ma anche dettagli appunto, come dici tu, di suoni, di cose che vedi nel menu. Vabbè, comunque, dovrò scoprire nuovi dettagli dopo questa cosa. Quello che voglio dire è che molti giochi non hanno un menu, perché ti vogliono buttare proprio in mezzo all'azione subito, tipo GTA o Red Dead Redemption 2. Rockstar lo fa molto, la fa molto sta cosa. E di molti giochi il menu lo vedrete una volta sola, perché o, diciamo, vi caricano subito nel gioco dopo aver premuto Start la prima volta, le volte successive qui caricate il gioco, oppure ci state giocando su una console nuova. Le console nuove, tipo la PS4 e Xbox One, non ricaricano il gioco da zero. Quando riaccendete la console, se avete la modalità riposo attivata, caricano direttamente il gioco dove l'avete lasciato. E questa cosa, diciamo, è figa, perché dici, cazzo, cioè, il concetto di salvataggio in un gioco che puoi in qualsiasi momento mettere in pausa, quindi vabbè, non Dark Souls, però in qualsiasi gioco in cui esiste il concetto di pausa completa, in cui tu premi pausa e il mondo si ferma, puoi spegnere la console, tornare il giorno dopo e il gioco continua. Anche in alcuni giochi dove non esiste la pausa, comunque a volte, tornando al menu principale, il gioco stesso viene messo in pausa per forza dalla macchina. E poi quando ci torni o ti rimandano al menu principale se sono seri, tipo Dark Souls, oppure continuano come se non fosse successo un cazzo. Quindi, poi vabbè, ovviamente già i multiplayer lo trattano in maniera diversa, però il concetto è questo, cioè tu a volte spegni una roba, tipo che ne so, io spengo, sto giocando a Bloodborne, spengo la console mentre sto tipo nella zona quella, nel sogno insomma, del cacciatore, che sarebbe la zona di riposo del giocatore. Esatto, l'hub centrale. L'hub centrale del gioco. In quella zona, diciamo, non sta succedendo niente, cioè sei abbastanza tranquillo di solito, quindi spengo e quando ritorno il gioco non si lamenta, cioè ricarica quella zona lì e al massimo mi dice che ho perso la connessione, ma io comunque non stavo giocando online. Quindi per molti giochi mi sono reso conto, cioè mi è capitato di vedere la schermata iniziale veramente una o due volte e basta. Uh-huh. Final Fantasy XV è uno dei pochi che sono stato forzato ogni volta a spegnere la console, perché su Xbox One, se giocavi più di tre ore e spegnevi la console in modalità riposo, il gioco cominciava a andare a scatti. Quindi, diciamo, mi ero forzato... Vabbè, comunque, questo volevo dire, cioè, secondo te... Dovresti in quel caso forzare il giocatore a tornare al menu principale, perché magari, che ne so, se nel tuo gioco non c'è uno stato di pausa, non dovrebbe essere in grado di fermare l'azione e tornarci immediatamente? Cioè, nel senso... No, è un bel argomento questo. Mi sembra un po'... Perché da un lato, cioè, è conveniente, è comodissimo, e per la maggior parte dei giochi chi cazzo se ne frega, ma per alcuni penso, cavolo, però, cioè, stai un po' andando intorno a una decisione di design, cioè ci stai un po' girando intorno, stai un po' togliendo... Non lo so. Forse però sì, è anche una cosa che sta succedendo adesso, inteso... Il mondo del videoludico così si sta evolvendo in questa maniera, che... Se fino a un certo tempo fa, no, era impensabile l'idea di lasciare semi-accesa una console in modalità riposo e così per semplicità, adesso è una cosa che fanno sempre di più, quindi questo aspetto del menu iniziale è una cosa che assume meno importanza e quindi perché è visto sempre meno, perché a un certo punto ci sarà, magari si arriverà a un punto in cui basta letteralmente premere sull'icona del videogioco nel menu della PlayStation, dell'Xbox o della Switch, già che se vogliamo includere tutti. fare l'inclusivo, vabbè. Esatto, il gioco partirà automaticamente, non ci sarà magari neanche più un menu principale vero e proprio. Chi lo sa? Chi lo sa, però boh, mi sembra una perdita un po', perché ci sono tante cose che puoi esprimere con un menu già. Forse è vero che la funzione principale deve essere togliersi dai coglioni, quindi magari farlo vedere più di due o tre volte non serve, però non lo so, cioè non per tutti i giochi è una cosa secondo me vantaggiosa. È vero che ormai è un po' che ci sta, perché già sulla PSP e sulla PS Vita c'era questa cosa del instant on, e quindi boh, effettivamente è un po' che ci girano intorno in altri modi, però boh, cioè non so se è mai successo, per esempio, adesso magari mi correggi, di un gioco dove tu premi start e non succede nulla all'inizio. Tipo, che ti fa partire qualcosa che ti fa credere che non stia funzionando il gioco. Cioè, no, un mindfuck un po' alla Kojima, seconda citazione. Cioè, ci sono cose che puoi fare con la lista delle opzioni di avvio, la lista delle opzioni del gioco... Alcune cose non le puoi fare, tipo secondo me se metti l'opzione dei sottotitoli fuori dal menu audio sei un pezzo di merda, cioè i sottotitoli devono... cioè per favore mettete sempre i sottotitoli nel menu audio, basta che devo metterci 10 minuti a scorrere tutte quante le opzioni, vabbè comunque, non lo so. Sì, lì diciamo che dipende molto dal tipo di gioco che... i creatori stanno cercando di realizzare. Se un videogioco che si basa puramente sul gameplay, che si punta tutto 100% sul gameplay e si interessa poco dell'atmosfera, della storia, di quello che vuole raccontare, per così dire, meno iniziale è un passaggio obbligato e basta, e poco altro. Okay. E per chi vuole invece creare più un'idea di mondo interattivo, di universo, come appunto capitava in Katamari, in Brutal Legend, e Kojima, perdonaci di nuovo, perdonateci sempre di nuovo, Metal Gear, anche il menu iniziale era un'altra possibilità per il gioco di continuare a creare questo universo, e quindi chi è i bravi sviluppatori, quelli buoni veramente, ne approfittavano per usare anche quello per questo loro obiettivo. Pure altrimenti finiamo con quello di Fortnite, dove ti vogliono vendere la roba e basta. Che cazzo. Ti fanno vedere le pubblicità, ti fanno selezionare la skin e poi dopo sei pronto a spaccare i culi, no? Comunque vabbè, spero che si sia capito dal nostro tono che comunque amiamo i videogiochi, siamo molto appassionati, io forse anche troppo, perché tendo un po' ad alzare la voce e andare più veloce quando mi eccito, quindi sono un po' troppo accelerato per queste cose. Comunque sì, questo era il primo episodio. Marco, sei qualcos'altro, qualche altro argomento? C'era la nostra schermata iniziale, oserei dire. La nostra schermata iniziale, spero che premerete start. Wow, che... Come siamo poetici a volte. Speriamo vi sia piaciuto, sì. Che vi abbia fatto riflettere, che vi faccia iniziare a capire il nostro punto di vista, per cui noi non vediamo colore. Volevo dire, noi vediamo i videogiochi abbastanza come una forma d'arte, un'espressione. Basta con questo discrepante. Lo so, perdonami, te l'ho detto, sono molto... mi sento romantico oggi. Allora, no, i videogiochi non sono una forma d'arte, sono una cosa per bambini, che serve a fare... sono dei giocattoli. Hai ragione, ho sbagliato io. Per favore, cioè... poi manco sono unici, cioè tu c'hai un ovviamente gioco, se giochi a un videogioco quando sei più vecchio di 10-12 anni al massimo, sei... fallito. Per favore, dai. A lavorare, a zappare la terra, dai. Esatto, forse comunque in futuro avremo delle rubriche, non so ancora che rubriche saranno, forse saranno degli altre scommesse inutili che ci dimenticheremo. Qual è la nostra, come si dice, l'equivalente nostro della sappio rubrica? No, io parlavo più delle scommesse e dei giochini alla fine, però... Ah, ci può stare, La nostra sappio rubrica sarà un episodio intero in cui non parleremo di Kojima, in cui ci sforzeremo di non dire la parola Kojima. Perché già io e te facciamo abbastanza esapio, ci sembra... comunque invitiamo Salla e lui ogni volta che parliamo di Kojima lui ci dice, ci insulta in qualche modo. C'è una bacchettata sulle mani. Esatto. Comunque sì, ripeto, sarà un podcast completamente non informato come il Sallotto, leggermente preparato, ma in realtà non è più vero, perché ormai c'è Andrea di là che si scrive le cose su taccuini, è politicizzato, è sapio. Quindi niente, vogliamo fargli sporoni. Io vi saluto. Anch'io vi saluto. Linea allo studio. Buon proseguimento. Alla prossima. Buona partita. Buona partita. Press start.